Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi cari ascoltatori e ascoltatrici e bentrovati come ogni domenica. E qui siamo qui insieme per passare un'altra oretta in compagnia. Saluto il amico Antonio che buonasera, è qui presente. Gesi. Buonasera e bentrovato. E un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Ricordiamo per chi lo desidera la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Bene, stasera abbiamo il professor Soligon che ci parlerà senz'altro di qualcosa di molto molto molto interessante. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a lei, professore. Buonasera a tutti. Come sta buonasera. Professore, bentornato. Sto bene, grazie, voi state bene? Sì, sì. Benissimo. Dopo le influenze passate stiamo tutti di stagione, come ecco, si suol sì. dire. Benissimo, allora lei stasera di che cosa ci parlerà? Allora, questa sera mi piacerebbe parlare con voi di una comunità di foresti che è stata importante in Venezia, la comunità degli Ermeni. Sì. Ma allora, prima di cominciare la trasmissione, sì, la sua conversazione, vorremmo far sentire una canzone. Stasera abbiamo Mina come protagonista. E allora la prima canzone è Vorrei che fosse amore. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. Allora a lei la parola, professore. Volevo, come dicevo prima, parlarvi degli Ermeni, che sono stati una comunità importante nella Serenissima. Quando diciamo Armenia Venezia, a tutti viene in mente il nome di un'isola amata in tutto il mondo e che è vicinissima a San Marco, un quarto d'ora, 20 minuti di vaporetto. Mi sto riferendo all'isola di San Lazzaro degli Armeni. E però l'isola di San Lazzaro degli Armeni è un insediamento armeno da neanche da 299 anni, perché è del 1717. L'anno prossimo si festeggeranno i 300 anni dell'arrivo degli armeni in San Lazzaro. Ma l'Armenia è ben più antica dell'isola ed è dentro di noi. Quando diciamo Armenia, pur essendo l'Armenia attualmente un piccolo paese, qualcosa dentro di noi si muove, perché è radicata nel nostro mito e nella nostra cultura. Pensate che, per esempio, ad ascoltare la Bibbia e a fare un po' di calcoli, il famoso giardino dell'Eden, dove Eva ha commesso quella famosa cosa che ci ha rovinato tutti quanti, il giardino dell'Eden sarebbe proprio stato situato in Armenia. Infatti la Bibbia dice che dal giardino dell'Eden partivano quattro fiumi, il Tigri, l'Eufrate, e noi sappiamo dove sono, sì, sono i fiumi della Mesopotamia, il Gion, e poi c'è il quarto fiume che a noi veneti fa sempre un po' ridere, perché si chiama, ma la Bibbia dice così, questo fiume si chiama Pison, e quindi noi veneti non manchiamo di farci sopra un sorriso. Allora, dati questi fiumi, sembra proprio che l'Eden sia da collocarsi dove adesso noi diciamo vi è l'Armenia. Un altro mito è dentro di noi, dell'Armenia, il famoso Monte Ararat, la vetta che supera i 5.000 metri. Ararat letteralmente significa luogo creato da Dio, creazione da Dio, e anche questo compare nella Bibbia, perché Mosè, dopo aver costruito la famosa arca e essere sopravvissuto con i suoi familiari alle acque del diluvio, sembra proprio che attracchi, finito il diluvio, sulla cima del monte Ararat. E sarebbe dalla cima del monte Ararat che il nostro patriarca Noè prima invia un corvo per vedere se le acque si stanno ritirando. Ma sapete che il corvo si attarda, si ferma a mangiarsi le carogne che galleggiano sulle acque del diluvio e non fa più ritorno. Allora Noè, c'è in San Marco un bellissimo mosaico che ce lo mostra, dall'arca sopra il monte Ararat invia una colomba e la colomba ritorna con nel becco il famoso ramoscello d'olivo, che da quel momento diventa il simbolo della pace, pace degli uomini e della pace in generale. Allora, Noè, il monte Ararat sono legati al popolo armeno, perché il fondatore del popolo armeno, il mitico eroe Aik, sarebbe un discendente di Noè, e Aik si sarebbe proprio fermato ai piedi del monte Ararat, cui avrebbe dato inizio al popolo degli armeni, che sono quindi il popolo dell'arca, miti antichissimi che sono dentro di noi. Ma poi l'Armenia è dentro di noi, noi veneti anche, per altre ragioni. Moltissime delle nostre piante che compongono il paesaggio veneto e non solo, sono originarie dell'Armenia. Pensate ai platani. I platani sono originari dell'Armenia. E poi frutti che ci piacciono tantissimo in primavera, le sarese, traduco ciliegie, per chi non capisse le susine, pensate che sono anche queste originarie dell'Armenia. E poi vi dirò un'altra cosa, una traccia profonda nel nostro dialetto del mito dell'Armenia, sono i famosi armeini, che sono le albicocche, traduciamo per chi veneto non è, e nel nostro dialetto armein, armellin significa armeno, letteralmente significa armeno. Quest'anno la raccolta degli armeini, mi dicono gli amici, che non è andata tanto bene. No, infatti di solito mi regalano un vaso di marmellata, non lo, o se la sono mangiata tutta, non lo so, ma non ho visto il mio solito vasetto di marmeata di armeini. E poi c'è un'altra pianta che è di origine armena e che segna tutto il nostro territorio, la vite. La vite è originaria dell'Armenia. E se si torna al mito di Noè, dell'arca, dell'Ararat, sappiamo che Noè è stato quello che ha fatto la prima balla della storia. storia che ha fatto fermentare i grappoli d'uva, poi ha bevuto, ha detto buono, sembra prosecco di Valdobbiadene, e si è ubriacato. La conseguenza è stata che si è spogliato, cioè la viena stanta del caldo, e si è messo a dormire. È bellissimo, sono bellissime le sculture agli angoli di Palazzo Ducale verso il Ponte dei Sospiri che raccontano proprio questo mito. Si vede Noè ubriaco che traballa ormai nudo sostenendosi alla vite e i suoi tre figli, sempre quelli dell'arca, che arrivano. Uno scandalizzato va addirittura al di là del ponte perché si immagina che pensi, senti che spussa, ma guarda che imbriagon, e disprezza il padre nudo addormentato. Gli altri due figli molto più saggiamente innanzitutto coprono la nudità del padre e poi decidono di aspettare che la sbronza passi come facevano le nostre donne quando lui tornava la domenica sera dalle bocce o dalla scopa imbriago. E cosa facevano? Saggiamente aspettavano il mattino dopo che passasse la baia. Ecco, anche la vite, anche l'uva è originaria dell'Armenia e quindi è proprio dentro i nostri miti. Poi naturalmente c'è la storia con la S maiuscola che riguarda l'Armenia, e la storia ci dice che gli armeni sono stati tra i primi cristiani evangelizzati dagli apostoli Taddeo e Bartolomeo, e pensate che sono stati, il regno di Armenia è stato il primo regno a diventare cristiano nell'anno 301, cioè 1715 anni fa. Stamattina faccio i conti giusti, perché di solito li sbaglio, ma stamattina mi vengono facili. Perché il re Tiridate III si è fatto in quell'anno 301 battezzare e rispettando pienamente la privacy e la libertà di coscienza dei suoi sudditi, ha obbligato tutti a battezzarsi. E quindi il regno di Armenia è stato il primo regno cristiano della storia. Poi aggiungiamo altre annotazioni importanti. Un centinaio di anni dopo, nel 404 o 405, un monaco, Mesrop, ha inventato l'alfabeto armeno, che è unico al mondo. Aggiungete un'altra cosa, che nel concilio di Calcedonia del 451 il regno armeno cristiano si è staccato dagli altri cristiani fondando la Chiesa Apostolica Armena, che è solo degli armeni. Riconoscono il Papa, ma lo vedono come un vescovo tra i vescovi, non hanno in realtà grandi differenze teologiche con il resto dei cristiani e dei cattolici, ma avere una religione nazionale armena ha contribuito molto a creare un'identità armena. Questa è un'osservazione molto importante. Allora pensate, un popolo che si connota fortemente perché ha una lingua tutta sua, un alfabeto tutto suo, una religione tutta sua, è un modo per riconoscersi e fare gruppo. Ci sono anche le minoranze, ma sono piccolissime. Attualmente ci sono circa 300.000 cattolici armeni, sono visti un po' come le bestie nere, e ci sono anche dei musulmani, perché gli armeni, per esempio, che vivono in Iran, sono stati obbligati con la forza a diventare musulmani. Però, in generale, gli armeni si identificano con la religione apostolica armena. La storia ci insegna che nel passato l'Armenia è stata un grande regno, oggi è uno stato piccolissimo, veramente molto piccolo. Un tempo c'era il regno d'Armenia e il regno armeno di Cilicia, adesso la Repubblica Armena quasi scompare, presa tra Turchia, Iran, Iraq e il Caucaso. Sulla carta geografica si fa fatica a riconoscere questo staterello. Pensate che lo stesso monte Ararat, che è uno dei simboli e dei miti dell'Armenia, in realtà non è più dentro nei piccoli angusti confini della Repubblica di Armenia, ma è dentro lo Stato della Turchia. Sapete che questo staterello si è dichiarato indipendente dall'URSS, di cui faceva parte, nel 1990, e che la sua indipendenza gli è stata riconosciuta tra il settembre e il dicembre del 1991. È uno stato piccolo, la capitale era Van, non ha neanche 3 milioni di abitanti, ha un reddito molto basso, pensate che hanno un PIL di 3.037 dollari all'anno, quindi salta fuori un reddito, crollo proprio. Eh sì, di 250 euro al mese, una roba veramente, veramente sì. Sono un paese povero che ha il pesante retaggio di tanti e tanti anni sotto l'Unione Sovietica. Sono 3 milioni neanche gli armeni che vivono nella Repubblica di Armenia, ma loro sono come gli ebrei da un certo punto di vista, hanno avuto la diaspora, la dispersione nel mondo, a partire dal 1375, quando è crollato il regno armeno di Cilicia. Professore, ci fermiamo un momentino, certo, per un altro brano, che è sempre cantato da Mina, Grande, Grande, Grande. Ah, grazie, bello, bellissimo. Dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventare un altro, e in un attimo tu sei grande, grande, grande, le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro professore, al quale lasciamo la parola. Allora io riprendo da dove avevo interrotto. Si parlava della diaspora degli armeni che è iniziata nel 1375. Dicevamo che nella Repubblica piccolissima di Armenia non vivono neanche 3 milioni di armeni, ma sparsi per il mondo ce ne sono ben 8 milioni. Però, quindi sono molti di più gli armeni che vivono fuori patria, se... fuori patria che quelli che vivono nell'attuale Repubblica. Ce ne sono anche in Italia, ci sono circa 2500 gli armeni che vivono in Italia e una delle loro sedi, e torniamo al nostro argomento principale, è proprio anche oggi Venezia. Teniamo conto di un'altra cosa, che ovunque gli armeni siano, e in questo assomigliano molto agli ebrei, conservano un forte senso di appartenenza, e questa forte appartenenza che sentono dentro di loro è proprio dovuta al fatto che si identificano in una religione, in una lingua e in un alfabeto. Parliamo dell'Armenia quindi a Venezia, tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto sino adesso. I rapporti di Venezia con gli armeni sono antichissimi, molto prima quindi dell'isola, più antichi dell'arrivo degli armeni nell'isola famosa di San Lazzaro con cui abbiamo aperto. Pensate che le reliquie dei primi martiri cristiani armeni, i famosi 10.000 crocifissi sul monte Ararat, di nuovo il monte Ararat, le loro reliquie sono conservate a Venezia. Poi vi dirò un'altra cosa, che sulle colonne della Basilica di San Marco sono numerosissime le firme antiche di armeni che hanno voluto lasciare un ricordo del loro passaggio nella Basilica veneziana scrivendo il loro nome, incidendo il loro nome sui preziosi marmi di questa chiesa. Facciamo di più, entriamo nella Basilica di San Marco, non come i turisti del giorno d'oggi che gli entra e esce senza guardare niente, mi fanno impressione. Soffermiamoci un attimo con calma, perché è una delle chiese più notevoli dell'intera cristianità. Ecco, entrando noi sulla sinistra incontriamo un capitello di marmi africani preziosissimi, sormontato da un blocco di agata orientale che pesa ben 6 kg, una pietra preziosa che è messa là. E questa piccola cappellina è detta del crocifisso, perché contiene un crocifisso considerato miracoloso. Un uomo di Canareggio, non avendo ottenuto la grazia richiesta, lo aveva infilzato con un coltello e, indovinate un po', dal Cristo trafitto dal coltello di questo sacrilego è uscito sangue. E quindi il crocifisso, considerato miracoloso, è stato portato in San Marco. Beh, se si guarda con attenzione questa piccola cappella si vede che assomiglia moltissimo alle antiche chiese armene, e qua in questa cappellina i monaci armeni potevano dire la messa in San Marco. E poi andando subito dietro la Basilica di San Marco, in un angolo molto bello di Venezia che è il campo di San Zaccaria, noi troviamo una delle chiese più spettacolari di Venezia, che è la chiesa di San Zaccaria. Beh, è un altro legame tra Venezia, antico, tra Venezia e l'Armenia. Questa chiesa è stata fondata nell'813, quindi ha 1203 anni. In qua spare le date giuste, proprio. Ma consideriamo che è stata fondata da un imperatore bizantino, con i schei dell'imperatore bizantino, che ha donato anche le reliquie di San Zaccaria, che è appunto il padre di San Giovanni Battista. Beh, questo imperatore bizantino era Leone V, ma guarda un po', era di origine armene. Era un armeno. Ci sono altri vincoli che legano, antichi, che legano Venezia all'Armenia. C'è un quartiere armeno a Venezia ed è vicinissimo a Piazza San Marco. Era una casa nazionale armena e la possiamo trovare proprio non lontano da San Marco. Basta chiedere le informazioni chiedendo della calle e del ramo degli armeni. È proprio un blocco di case armene. E lì si sono mantenuti i ninfioeti. Sapete che i ninfioeti sono i rettangoli con i toponimi a Venezia. Si sono mantenuti i ninfioeti in veneziano, cioè senza le doppie, sotto portego dei armeni. Lo dico perché un po' di tempo fa si era diffusa la moda, arrivata dal municipio di Venezia, di mettere le doppie stramba contestatissima. I veneziani cancellavano le doppie, esatto. Perché sapete che le doppie a Venezia non si usavano, venivano usate, io dico sempre così, che le doppie a Venezia andavano e venivano a seconda delle ombre che si beveva. Ma non ci sono nel nostro dialetto, quindi giustamente troviamo il ninfioeto con sotto portego degli armeni. E lì c'è una delle prime testimonianze notevoli della presenza armena, una chiesa, la chiesa di Santa Croce degli Armeni, perché gli armeni hanno una grande devozione per la croce, perché un imperatore bizantino, Eraclio, che in realtà era un armeno, avrebbe recuperato la Santa Croce rubata dal re dei persiani e l'avrebbe riportata in Gerusalemme. Quindi gli armeni hanno una grande devozione per la croce, e lì in questo quartiere veneziano degli armeni c'è una bellissima chiesetta che è sconosciuta, non la conosce nessuno, anche perché ormai, a parte una domenica al mese mi pare, è sempre chiusa, ed è la chiesa di Santa Croce degli Armeni. È completamente inglobata dalle case armene, per cui non è facile dalla calle, dal sottoportego, capire che sia davanti a una chiesa. E io anni fa mi divertivo a prendere in giro i miei amici, a fare delle scommesse, perché quando arrivavo qua, nella zona degli armeni, dicevo: qui c'è una chiesa, vediamo chi la trova. Se la trovate pago la cena a tutti, se non la trovate voi pagate la cena a me. E mi facevo di quelle cene meravigliose, perché non riuscivano a trovarla, perché è inglobata nelle case e ha una porta che sembra una porta, la porta di un'abitazione privata. Io ho ripetuto negli anni questo scherzo per vincere la cena. Un anno, qualche anno fa, arrivo là, un gruppetto di amici, propongo il solito gioco: se vincete voi pago io la cena, se vinco io voi non trovate la chiesa mi pagate la cena. Si sguinzagliano nel quartiere degli armeni e dopo un secondo sento uno che fa: ah, l'ho trovata, è qua la chiesa. Sapete perché? Perché nel frattempo avevano fatto sta pensata, hanno messo un grande cartello accanto alla porta della chiesa con su scritto chiesa di Santa Croce degli Armeni. Oh, dovesse pagare la cena a tutti, ti ammagnà come disperato, sembrava fossero anni che non mangiava. Un contrappasso. L'ira di Dio. Oddio mio. L'ho pagata per tutte le cene che avevo vinto precedentemente, l'ho pagata con gli interessi passivi. Da quella volta non ho più potuto più scommesse. Ecco, adesso allora se si va nel quartiere armeno di Venezia è anche facile, grazie a questa targa, di cui io non ho un bel ricordo, individuare la presenza della chiesa. È una chiesa molto interessante, ed è uno dei gioielli quasi sconosciuti di Venezia. Poi c'è un altro luogo di Venezia che conserva il ricordo di antichi rapporti tra armeni e Venezia, ed è Ruga Giuffa. Ruga Giuffa è un nome, un toponimo un po' contestato, ma sembra quasi sicuro che derivi dalla città di Giulfa, la città importante per gli armeni. Ruga Giuffa la si raggiunge facilmente da Campo Santa Maria Formosa, vicino alla Querini Stampaglia. È una calle molto interessante perché c'è anche Palazzo Grimani, Palazzo Malipiero, edifici notevolissimi. Qui in Ruga Giuffa c'erano tante botteghe armene nel 1500. Gli armeni erano grandi, gli armeni sparsi nel mondo per la diaspora erano grandi mercanti, vendevano qui, avevano botteghe di lana, cotone, seta, lino, all'ingrosso li vendevano per le manifatture, vendevano colori per i paramenti liturgici e anche per le gondole, e pensate che vendevano anche coloranti per i vetri di Murano. Un'altra merce che, e per cui gli armeni erano famosi, erano i tappeti. Intorno al X secolo c'erano tre grandi centri di produzione armena di tappeti, e ancora oggi averne uno in casa è, insomma, è avere un bel, di prestigio. Un bel capitale. Però non fateci camminare sopra gli ospiti, perché costa troppo i skate, è meglio tenerli, meglio conto, tenerli. Sì. Però dicono siano indistruttibili e che quindi in teoria anche gli ospiti ci possono camminare sopra tranquillamente. Ci fermiamo un momento, professore, per un altro brano. Sempre di Mina? Sì. Ah, benissimo, è la mia preferita, ascolto volentieri. Vedi che ci ho indovinato. Il cielo in una stanza. Molto bello. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il professor Soligon Antonio. Professore, a lei la parola. Allora, andiamo avanti con gli armeni, con osservazioni, dicendo che i primi 7 libri stampati in lingua armena non nascono in Armenia, ma vedono la luce a Venezia nel 1511. Ecco un altro legame fortissimo tra la cultura armena e Venezia. E poi famiglie armene, che sono diventate importanti nel panorama delle famiglie veneziane, i Surian, per esempio, o gli Sheriman, un'altra famiglia armena. Un altro legame forte, che forse non tutti sanno, è che l'ultima regina di Armenia è stata Caterina Cornaro, regina di Cipro, sì. Caterina Cornaro, che poi è diventata signora di Asolo, è stata anche l'ultima regina armena del regno di Cilicia. Ecco un altro legame forte. Torniamo però al luogo più famoso di Venezia per la presenza degli armeni, è il luogo col quale abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, ed è la celeberrima isola di San Lazzaro. Qui gli armeni, vi dicevo, arrivano solo 299 anni fa. Dobbiamo parlare di un monaco molto famoso, uno dei personaggi più importanti della storia armena, vissuto tra 1600 e 1700, è il monaco Mekhitar di Sebaste in Cappadocia. Era figlio di mercanti, il suo nome alla nascita era Petros Manuk, e il padre sognava di farlo diventare un mercante come lui, ma si sa che i figli fanno quello che vogliono. Sempre seguono le orme. Devono seguire la loro strada. E Petros aveva la vocazione ed è entrato in monastero. Si fa monaco e cambia il proprio nome in Mekhitar, che significa consolatore. Allora gli armeni erano nel territorio dell'impero ottomano e lui va monaco nella capitale, Costantinopoli, e lì nel 1701 fonda un proprio ordine monastico che dal proprio stesso nome Mekhitar chiama ordine mekhitarista. Però gli ottomani continuano a perseguitarlo e allora il nostro Mekhitar con i suoi monaci, che sono cattolici, sono la minoranza cattolica, cattolici di rito orientale, sfuggono da Costantinopoli e si rifugiano nel territorio veneziano. In quegli anni il Peloponneso, che i veneziani chiamavano la Morea perché assomiglia a una foglia di gelso, era dominio veneziano. E il nostro Mekhitar con i suoi monaci si rifugia sotto le grandi ali del Leone di San Marco a Modone. Qualche anno dopo, nel 1715, tira aria di guerra tra Venezia e i turchi. E allora Mekhitar con i suoi 12 monaci, 12 come gli apostoli, su una barca che di solito trasportava olio, decide di fuggire dalla Morea e di raggiungere Venezia. Dopo una quarantena, che era per motivi di igiene e sicurezza sanitaria, lui con i suoi 12 viene ospitato vicino alla chiesa di San Martino, che è una chiesa molto bella, che è vicino all'Arsenale, la più grande archeologia industriale di tutto il mondo che ci sia giunta dal passato. E però non basta, questi monaci hanno bisogno di una sede loro. Ed ecco allora che compare l'isola di San Lazzaro. Con il doge Giovanni Corner, l'isola di San Lazzaro viene il 26 agosto 1717 data in perpetua al monaco Mekhitar, 26 agosto 1717. Quindi l'anno prossimo festeggeremo i 300 anni sì, dei monaci armeni in questa famosa isola di Venezia. Come mai viene data a Mekhitar? Perché l'isola era nel più totale abbandono. In antico era stata una sede benedettina, una casa di lebbrosi e via via, ma in quel periodo, inizio Settecento, era completamente abbandonata. Arrivano allora in quest'isola, che in realtà è vicinissima a Piazza San Marco, la si raggiunge imbarcandosi nel vaporetto di Riva Schiavoni. 20 minuti, vi dicevo prima, e siete nell'isola di San Lazzaro. Allora quest'isola era tutta un rovaio, edifici abbandonati, arriva Mekhitar con i suoi monaci e la fanno rinascere. Costruiscono il monastero, che è ancora là, bellissimo, la chiesa, ricavano gli orti per le loro coltivazioni. Costruiscono una chiesa, ripeto, che è di rito cattolico orientale, quindi non sono apostolici armeni, e poi fondano là, comprando a Amsterdam nel 1729 una macchina per la stampa, fondano la stamperia dell'isola di San Lazzaro, e pensate che quella stamperia diventa il fulcro culturale di tutti gli armeni sparsi per il mondo. Quindi il centro culturale della diaspora armena non è più in Armenia, ma è proprio a Venezia, in quest'isola, grazie alla stamperia. Qua vede la luce la Bibbia in armeno nel 1735 e pensate il dizionario armeno, il vocabolario armeno nel 1749, quindi il dizionario armeno, il classico, non è in Armenia ma vede la luce in Venezia. Vi dicevo 1749, nello stesso anno muore anche il nostro valoroso Mekhitar, la sua tomba è lì nella chiesa di San Lazzaro e chi visita la chiesa può vedere anche la tomba. Cosa succede quando arriva Napoleone? Sapete che Napoleone chiude un sacco di conventi, chiude un sacco di chiese e confisca i loro beni. Io dico sempre ai miei allievi, Una cosa è certa, non tutti i francesi sono ladri, ma buona parte sì. Ecco. Però, l'isola di San Lazzaro con il suo monastero si salva. Perché? Perché Eugenio Beauharnais, il figlio d'anima di Napoleone, viceré d'Italia, è innamorato della pace di quest'isola e con decreto 14 agosto 1810 la trasforma in accademia di scienze. Napoleone chiudeva i conventi con pochi frati e considerati socialmente inutili, però con la trasformazione di San Lazzaro in accademia delle scienze, ecco che l'istituzione mechitarista diventa socialmente utile e quindi si salva. L'isola si salva, resta la chiesa e resta in funzione anche il monastero, che è stato luogo di ospitalità di personaggi famosissimi. Byron, il famoso poeta inglese, è stato per tre anni un frequentatore tra il 1816 e il 19 dell'isola di San Lazzaro. Lui ha vissuto tre anni a Venezia, sapete, spirito romantico. Ramingo poi andrà in Grecia a combattere per l'indipendenza dei greci e dei turchi e morirà nel 24. E grande poliglotta, pensate che parlava in dialetto veneziano e sapeva perfettamente anche l'armeno. Oltre ad avere tutte queste belle doti di uomo di cultura, di poeta, era un grande tombeur de femme. Tre anni è stato a Venezia. Sapete quante amanti ha avuto a Venezia in tre anni? 200. Sì, è un record, eh? Penso che neanche in Casanova si riuscisse. Poi abbandona Venezia perché si è innamorato di una donna ravennate che ha conosciuto e la segue a Ravenna e poi, come vi raccontavo, morirà in Grecia combattendo per l'indipendenza greca. Quando arrivava a San Lazzaro ero accolto a braccia aperte dai monaci, cioè parlavano correntemente con lui perché lui parlava l'armeno, e ancora oggi nell'isola c'è una lapide che ricorda la permanenza di Lord Byron, amico devoto dell'Armenia, morto per la liberazione della Grecia, ed è una lapide che ci ricorda dove Byron amava sedersi all'ombra degli alberi per creare le sue famose liriche, le sue famose poesie. Ve ne racconto un'altra. Sapete che nell'isola di San Lazzaro spesso ci andava anche Giuseppe Verdi? Eh sì, quando eri in crisi di idee andava a San Lazzaro e per esempio parte dell'Aida, la famosissima opera scritta per l'inaugurazione del canale di Suez, tra il 1867 e il 1870, parte dell'Aida è stata scritta, composta proprio nell'isola di San Lazzaro, degli Armeni, così per fare un esempio della rilevanza culturale del luogo, non solo per gli armeni di tutto il mondo, ma anche per noi, di questa isola veramente incantevole e bellissima. Bene. Sapete che la si può raggiungere, la si può visitare e sono i monaci stessi che vi conducono alla visita. Come guide. Sì, della chiesa, del monastero, sapete che hanno dei tesori d'arte, una famosissima biblioteca con il soffitto del Tiepolo, qualche anno fa ha subito un incendio purtroppo, ma insomma in parte si è salvata. Bene professore, ci ascoltiamo adesso, visto che il tempo stringe, ci ascoltiamo un'altra canzone cantata da Mina che è Città Vuota. Va bene, grazie. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te. schiavitù. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il professor Antonio Soligon, e continuiamo il discorso. E continuiamo il giro virtuale che avevamo intrapreso nell'isola bellissima di San Lazzaro degli Armeni. Prima di venire via da quest'isola colma di tesori antichi, ricordatevi di comprare la famosa marmellata di petali di rose. Queste rose vengono coltivate proprio molto, è buonissima, nell'isola dai monaci, che sono anche quelli che poi confezionano questa marmellata, è veramente buona. C'è un altro luogo importantissimo armeno a Venezia ed è il famoso collegio Mora Rafael, che è ospitato in Palazzo Zenobio. È nato nel 1834, erano in realtà due collegi separati, il Mora a Padova e il Rafael a Venezia, che poi si sono riuniti in un unico collegio. È nato grazie all'eredità di due ricchissimi mercanti armeni, con lo scopo di dare la possibilità di studiare ai giovani armeni intelligenti sparsi per il mondo e dotati di pochi mezzi. Il collegio li portava alla maturità e poi c'era la prosecuzione degli studi in genere all'Università di Padova, e da qui uscivano gli ingegneri, gli avvocati, i medici armeni che poi magari tornavano proprio in Armenia, nella loro patria. Il collegio Mora Rafael si è riunito nel 1870 e appunto sede in Cazenobio, un bellissimo palazzo del Settecento di Venezia. Ancora oggi nella biblioteca di Cazenobio, in fondo al giardino, è ospitato il centro di studi armeni e la casa editrice OM. Quindi Venezia, con il collegio armeno, continua a essere un centro culturale armeno della diaspora veramente tra i più importanti del mondo. Non posso non parlare dell'olocausto, del genocidio armeno. Sapete che è cominciato nel 1915 a opera dei turchi e è andato avanti fino al 1918, con punte fino al 23. I maschi armeni venivano fucilati o impiccati, le donne, le bambine venivano portate nel deserto e lasciate morire in pratica di fame e di sete. Hanno fatto 1,5 milioni di morti. Pensate che Hitler, quando ha cominciato a pianificare lo sterminio degli ebrei, ha preso, nella Seconda Guerra Mondiale, ha preso esempio da questo sterminio, da questo genocidio armeno perpetrato dai turchi nella Prima Guerra Mondiale, tra il 15 e il 18. È sempre rimosso anche, mi pare. È sempre rimosso. Pensate che adesso sono 21 gli stati che riconoscono il genocidio armeno, però tra questi 21 non ci sono gli Stati Uniti e non c'è neanche Israele. I turchi negano e dicono che quei morti, loro ne abbassano il numero a 200.000, sono stati in realtà una tragica combinazione tra una guerra civile in corso, una carestia e delle epidemie. La Repubblica di Armenia, lo staterello piccolissimo di cui parlavamo prima, ricorda il genocidio il giorno 24 aprile di tutti gli anni, che è anche la festa nazionale. Sapete che c'è un rapporto profondo tra questo dramma, il genocidio armeno, e Venezia, e questo rapporto lo dobbiamo cercare proprio nel collegio Mora Raffaele, il famoso collegio armeno di Venezia. Perché, pensate, se si va a vedere, se si vanno a vedere i primi 500 nomi degli uomini uccisi tra i primi dai turchi nel 1915 per il genocidio, beh, si scopre che gran parte di questi nomi sono i nomi degli ex allievi del collegio veneziano Mora Raffaele. Eh sì, perché diventavano questi ragazzi, uomini, diventavano la classe dirigente armena, e i turchi che hanno pianificato il genocidio hanno cominciato proprio a decapitare il popolo armeno, tirando via la testa pensante, ed erano gli allievi del collegio Mora Raffaele. Quindi c'è anche questo legame profondo, tragico, di sangue, che lega Venezia alla storia degli armeni. Voglio chiudere, perché penso che ormai si sia verso la conclusione, consigliando un libro, se è possibile leggerlo, che è la famosa Masseria delle Allodole. Forse l'avete sentito. Antonia Arslan. È benissimo, dell'Antonia Arslan, che è del 2007, mi pare, questo libro. È un libro che a me è piaciuto tantissimo. È romanzato, un po' racconta la storia anche della propria famiglia, ma ha basi storiche, questo libro, molto concrete, perché purtroppo il genocidio degli armeni è un fatto concreto della storia. Ecco, voglio chiudere con questo libro per dire che anche nella storia dell'umanità, fatta di luce e ombre, succede anche questo, che anche dalle grandi tragedie possono nascere dei fiori, e questo libro è veramente un fiore della cultura armena, espressa questa volta in lingua italiana. Bene, lo leggerò. Un paio di cose, professore. Abbiamo anche due nomi famosi che mi vengono in mente. Il primo è Aznavour, Charles Aznavour, il grande cantante. E l'altro è un cardinale, se non ricordo male, il cardinale Agajanian. E il nome dice, finisce in Nan, che è di origine. Che è sicuramente di origine armena. Sì, certo, cattolico naturalmente. Esatto. Poi c'è una minoranza cattolica. Certo, certo. E c'è un'altra cosa che ho letto, che mi è parsa abbastanza così, non dico strana, ma particolare, che è, la forma dell'arca, praticamente dell'arca di Noè, ricorda molto la forma della gondola veneziana. C'è qualcosa in comune. Almeno nella ricostruzione immaginifica che si fa dell'arca di Noè, perché era una imbarcazione destinata a contenere non solo Noè e i suoi familiari, ma anche una coppia degli animali, esatto. Una specie, quindi pensate, doveva avere, e doveva anche avere un tetto per ripararsi dalla pioggia, altrimenti si sarebbe allagata. Le ricostruzioni di fantasia che si sono fatte dell'arca sono naturalmente molto numerose, basta, io mi riferisco all'arte veneziana, pensate per esempio alla salita degli animali nell'arca di Jacopo Bassano, ecco, oppure come viene rappresentata l'arca nella Basilica di San Marco, solo per fare degli esempi. Ecco, la si è ricostruita e immaginata in tanti e tanti modi. Uno di questi modi è proprio la avvicina alle gondole di Venezia, quindi il suo ricordo è corretto. Dentro il mito che è straordinario proprio. È perché sapete che ci sono ancora adesso esploratori, avventurieri, esatto, pieni di fantasia che vanno a cercare l'arca sul monte, oltre i 5.000 metri, vuol dire che hanno buoni polmoni, buone gambe, eccetera. D'altra parte, lo stesso Marco Polo dice di aver visto i resti dell'arca nel suo viaggio verso le terre del Katai, verso Kubilai Khan. Per cui, insomma, è il grande mito armeno, il popolo dell'arca, che ancora ci fa parlare, ancora ci fa discutere. Benissimo. Sarebbe Andiamo con l'ultimo brano musicale, che è Un anno d'amore. Bellissimo. Si può finire qui, ma tu da lo puoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci. Servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci. Torniamo in studio con il nostro ospite e per il finale, diciamo, una sola cosa volevo chiedere al nostro professore. Nel patrimonio di San Lazzaro mi pare ci sia anche un trono egiziano, o sbaglio? Sì. Una cosa molto molto veloce. Il patrimonio di San Lazzaro nel museo, oltre alla biblioteca e il refettorio, conserva dei pezzi straordinari. Uno è questo... è questo scranno e questo trono di cui lei parla, e poi c'è anche una mummia che è famosissima, perché pensate che questa mummia conservata nel museo di San Lazzaro è una delle meglio conservate al mondo, è la mummia di Nemenket Amen ed è del VII secolo avanti Cristo. È in assoluto una preziosità, una gemma, proprio per il suo straordinario stato di conservazione. La mummia è proprio esposta davanti al trono di cui lei mi parlava poco fa. Un altro primato veneziano, se vogliamo. Allora non ci resta che ringraziare il nostro professore e naturalmente invitarlo a una prossima volta molto volentieri per altre chicche, altre preziosità. È sempre molto molto esauriente, molto bene bene, una bella trasmissione, e la ringraziamo tantissimo. Grazie a voi dell'accoglienza, vi auguriamo buona settimana. Altrettanto a voi e a Dio piacendo, alla prossima volta. E alla prossima volta un caro saluto a tutte. Ok, io sempre col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.